Caffè della Domenica di Maria Latella. Buona domenica e forse questa mattina il caffè dovrei prenderlo con un commissario più che con l'ospite che è con noi. Buona domenica Walter Veltroni. Buongiorno, che è il creatore della figura del commissario Bonvino, e al commissario Bonvino è dedicato l'ultimo romanzo che è uscito per Marsilio il 29 ottobre. Il commissario Bonvino sì che c'ha il rito del caffè del mattino. Sì, con i suoi colleghi del commissariato di Villa Borghese, è l'inizio della storia, di questa storia che si svolge nella Roma dopo il lockdown. Bonvino, che è arrivato in quel commissariato un po' come se andasse nella legione straniera, no? È stato mandato lì insieme a 7 agenti un po' così, un po' scelti a caso, per usare un eufemismo, e nel primo romanzo si è trovato a dipanare una matassa molto complicata. Assassinio a Villa Borghese era, esatto, il primo romanzo. E così, diciamo, si è riscattato dalla condizione di perdente, di sconfitto che lui e i suoi colleghi avevano. E qui invece si trova a dover affrontare un cold case, cioè una ragazza lo ferma e gli racconta che il suo fratellino è sparito qualche anno prima durante una giornata che aveva visto appunto la sua famiglia essere a Villa Borghese. Questo bambino sparisce e Bonvino e i suoi si mettono alla ricerca delle ragioni per le quali è scomparso, per cercare di capire se è vivo, se è morto e cosa ne è successo, ed entra nella storia di questa famiglia, che è una storia complicata. Bonvino è il caso del bambino scomparso, è appunto il titolo del libro che viene pubblicato, dicevamo, da Marsilio, ma è anche il... uno dei primi romanzi, sicuramente il primo giallo, se non vado errato, che racconta com'erano le nostre città durante il lockdown nel quale ci apprende a rientrare. Allora, che cosa arriva al lettore della Roma nel lockdown e come l'ha vissuta lei, Walter Veltroni? Ma io l'ho vissuta come tutti, chiuso in casa, io non ho terrazze, non ho balconi, non ho nulla, per cui mi affacciavo alla finestra e parlavo con chi tornava dalla spesa e sembrava, sai, come nei film, quando ci sono le scene, non so, del quartiere di Garbatella a Roma o dei quartieri popolari, sì, in cui c'è qualcuno alla finestra che parla con le persone sul prezzo dei carciofi, eccetera. E io facevo un po' così, la gente passava, mi chiedeva ma che succede, allora si aprivano delle discussioni. Ma io l'ho passato così, ma credo che tutti quanti ce lo ricordiamo al tempo stesso, come succede spesso nella vita, come un incubo e come una condizione abbastanza particolare. Devo dire, in quel momento ci sentivamo tutti un pochino più stretti tra di noi, un pochino più comunità di quanto probabilmente ci sentiamo adesso di fronte a questa nuova ondata, e però quella è stata una grande risorsa per evitare di piegarci sotto i colpi di qualcosa che era del tutto inimmaginabile, che ha insomma le dimensioni di una vera tragedia. Ormai siamo quasi a 40.000 morti, siamo in una situazione nella quale nessuno di noi immaginava di trovarsi più. In fondo la nostra generazione qualsiasi problema aveva, se l'era scampata, non aveva avuto la guerra, aveva avuto, sì, il terrorismo, sì, però sì, ma il terrorismo, ce l'eravamo scampato, efferato, non ti portava ad avere paura di incontrare tuo figlio o tuo padre, insomma, no? Nel senso che era una condizione diversa, e qui è un virus che è quello che è più legato proprio alla dimensione dell'orrore, dell'incubo, della imprevedibilità, dell'imponderabilità nel suo essere assolutamente invisibile. Quindi veramente ci è capitata questa tragedia a noi, in tutto il mondo in questo momento, e per quanto riguarda ciascun cittadino, ecco, penso che questa dimensione solidale, questa attenzione nei confronti dell'altro, questo sentirsi tutti sulla stessa barca, sia anche un modo per poterne uscire il più rapidamente possibile. Per poterne uscire senz'altro. Senta, Veltroni, questa mattina sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio dice che lei si iscrive nel gruppo di quelli che praticano l'autoflagellazione compiaciuta, perché nei giorni scorsi in TV, ha detto dobbiamo smettere di dire che siamo stati più bravi degli altri. Invece, secondo Travaglio, l'Italia è messa meno peggio di Francia e Gran Bretagna. Lei è pessimista o è Travaglio che sbaglia? No, no, io a quella frase che viene riportata ne ho aggiunta un'altra. Ho detto se anche fosse vero, non è il caso di dirlo perché ci sono 40.000 morti. Cioè, credo che la cosa più spiacevole in questo momento sia accendere la televisione e sentire chiunque che dica, non solo il governo, ma i presidenti di regione, eccetera, che dica avevo capito tutto, abbiamo fatto tutto bene, insomma. Oggi il ministro Speranza dice terrificante la curva dei contagi, le valutazioni sono terapie intensive sempre più piene, punto critico a metà novembre, non sono io a dirlo, è il governo a dirlo e d'altra parte è il governo che si sta preparando a prendere altre misure. No, il mio era solo come posso dire, un pacato invito alla sobrietà di ciascuno, insomma, ecco, è un momento veramente molto difficile nello stato d'animo delle persone e credo che la misura delle parole e la loro sobrietà sia qualcosa che aiuta a stabilire una relazione tra i cittadini e chi in questo momento ha, e certo nessuno può pensare che sia facile responsabilità pubbliche e istituzionali. Lei di responsabilità ne ha avute molte, è stato tra l'altro ministro della cultura ha una grande riconosciuta passione per il cinema, ha fatto anche dei film, dei documentari. Ce la farà il sistema culturale italiano, che già non era, diciamo, fortissimo, a resistere a un nuovo lockdown? E le chiedo, chiudere i cinema e poi successivamente, come vogliono alcuni presidenti di regione, De Luca, Emiliano, tra l'altro del suo partito, del PD, chiudere le scuole. Che messaggio dà dell'Italia? Perché le scuole, sia in Francia che in Germania che in Gran Bretagna, con lockdown, comunque non le chiudono. Ma guardi, anche oggi, sempre per fare riferimento a ciò che scrivono i giornali, che diciamo, comunque ha un Villani del Consiglio del CTS, dice un errore privare i ragazzi di un luogo sicuro come la scuola. Ora, in questi casi le opinioni sua, mia, sinceramente valgono poco, nel senso che bisogna guardare i dati, bisogna guardare i dati e se dai dati risulta che ci sono dei luoghi che sono particolarmente capaci di generare contagio, è ovvio che bisogna intervenire. Se invece così non è, personalmente ritengo che uno dei problemi più drammatici e uno dei luoghi nei quali questa epidemia si è più rapidamente diffusa sono i mezzi pubblici e che l'affollamento sui mezzi pubblici inevitabilmente è in contraddizione con quel distanziamento sociale che ci è stato giustamente spiegato doveva essere il modo attraverso il quale allontanavamo il ritorno del virus. E in Senta, generale. prima di tornare a Buonvino, perché ho una curiosità sul commissario, c'è da dire che questo continuo rimpallo di responsabilità tra la ministra dei trasporti De Micheli e le regioni sul perché non è stato possibile programmare un piano per i trasporti è una delle cose che appunto irrita di più i cittadini. Tutti ricordano che la grande responsabilità di aver attribuito alle regioni grandi poteri, segnatamente quello sulla sanità, è una responsabilità che fa capo alla sinistra italiana, al ministro Bassanini che all'epoca appunto volle la riforma del titolo quinto. Possiamo dire oggi che forse è stato sbagliato dare anche la sanità, anche altre responsabilità alle regioni? Ma guardi, no, questo non so, nel senso che secondo me più noi teniamo vicino il momento della decisione alla vita reale delle persone, e meglio è, in fondo chi sono quelli che da questa vicenda escono, come posso dire, meglio? Sono i sindaci che sono quelli proprio più prossimi, no? Più vicini, quelli che ogni giorno sentono lo stato d'animo della loro comunità. La sanità è in realtà ha una dimensione regionale che naturalmente andrebbe, come posso dire, riequilibrata attraverso il fatto che nessuna delle regioni si senta uno Stato, perché tra l'essere una regione che ha dei poteri e l'essere uno Stato come in altri sistemi c'è una differenza, e quindi l'elemento di raccordo, di comunicazione, di relazione col governo nazionale dovrebbe essere naturale, ma insomma questo fa parte un po' della situazione di confusione di livelli istituzionali che si è determinata nel corso di questi anni e che meriterebbe di una, come posso dire, di uno sguardo d'insieme, ecco. Dunque, per tornare al commissario Buonvino, è il tipico commissario che ciascuno di noi cittadini, in caso di bisogno, vorrebbe trovarsi di fronte, una persona intelligente, sensibile, che riflette, che non vuole fare, come dire, il supereroe, che vuole risolvere i casi. In questo momento, secondo lei, le forze dell'ordine, che sono chiamate a un lavoro straordinario, così come i medici, così come gli infermieri, sono in corrispondenza, diciamo, sentimentale, emotiva con il paese? Guardi, io ho fatto un dibattito con il capo della polizia per presentare un filmato che è stato fatto della polizia, e l'ho sentito dire delle cose molto, molto giuste e molto belle. Gli ho sentito dire che in questo momento, per lo stato d'animo che c'è nell'opinione pubblica, la polizia deve svolgere non solo una funzione di garanzia della sicurezza dei cittadini, ma deve svolgere anche una funzione di relazione con questo malessere, con questo disagio molto profondo che c'è in tutti i cittadini. Penso che questo atteggiamento che la polizia, che le forze dell'ordine italiane in questo momento hanno, sia una garanzia per tutti. L'altro lockdown ha aumentato un po' in tutti i paesi il numero dei lettori, perché leggere è stato anche un modo di scappare fuori dalle nostre case con la fantasia. Lei ha scritto l'ultimo giallo con Buonvino protagonista nei mesi del lockdown, ma secondo lei gli italiani fuggono con i libri, con i gialli, un po' meno di quanto non facciano gli altri europei? Ma guardi, sai, intanto c'è un problema generale che in questo momento può riguardare la possibilità di acquisto da parte delle famiglie, insomma è un momento molto difficile da questo punto di vista. E poi c'è tradizionalmente uno squilibrio tra la quantità di libri che vengono letti negli altri paesi europei e quello che accade da noi. Però devo dire che il mercato dei libri è stato tra quelli che ha retto meglio a questa durissima stagione che abbiamo vissuto, probabilmente perché i libri costano meno di tutto il resto e soprattutto perché evidentemente c'è un bisogno di alimentare la fantasia, l'immaginazione, il sogno, insomma tutto quello che in questo momento sembra un pochino messo in discussione dalla cupezza di questo tempo. Il primo giallo con il commissario Buonvino, Assassino a Villa Borghese, si svolgeva nel quartiere elegante di Roma, i Parioli, e invece questo giallo che contesto ha? Ma questo giallo, il contesto in questo caso è di una sparizione che avviene in un'altra zona di Roma, al Flaminio, e poi però la storia si dipana per altri luoghi, adesso non sto a specificare quelli per quali, per non spoilerare, come si dice oggi, ma però diciamo il riferimento è sempre lì, è sempre Villa Borghese, è sempre quel posto incredibile, meraviglioso che è il più grande parco culturale che ci sia in Europa, in cui c'è dalla Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, al Museo Canonica, alla Casa del Cinema, al Globe Theater, e al tempo stesso c'è uno spettacolo della natura che è quello che consente nel cuore di una città di avere un luogo che è un piccolo microcosmo, ecco, e Buonvino e i suoi agenti un po' strani attraversano questo microcosmo cercando di evitare che si possano creare alterazioni alla pacifica sicurezza dei cittadini che ci vanno. Speriamo che anche tutti i nostri connazionali che a Roma non vivano possano tornare presto a vedere questa meraviglia che è effettivamente Villa Borghese. Grazie a Walter Veltroni per essere stato con noi e vi ricordo il suo ultimo giallo pubblicato da Marsilio, lo trovate in libreria proprio appena uscito. Buon caffè, Veltroni, noi ci Grazie a sentiamo tra lei. pochissimo di nuovo con Nessuno è perfetto.